I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. C'è un bel dato, stavolta davvero rotondo, che arriva dall'economia. Il 2016 sarà una vera annata da imbottigliare per l'export del Made in Italy. A dicembre le esportazioni sono salite del 5-7%, con un incremento simile a quello già registrato a novembre. Nel complesso, rispetto all'anno precedente, le vendite oltre confine dei prodotti italiani sono arrivate a 417 miliardi, l'1,1% in più del 2015. Una performance in linea con quella della Germania e superiore a quella di Francia e Regno Unito. L'avanzo commerciale a fine anno arriva così a 51,6 miliardi, quasi 10 in più dell'anno prima. Vanno bene un po' tutti i settori classici del Made in Italy, sia nei beni di consumo che in quelli strumentali. Il primo mercato è la Germania, dove l'export italiano è cresciuto del 10,3%, e questo è davvero un dato che fa ben sperare per un cambio di passo un po' strutturale, perché sono i beni semilavorati italiani che fanno parte della catena del valore delle produzioni integrate e di ultima generazione a fare davvero la parte del leone. Si tratta di un buon segnale che Industria 4.0 è davvero un fattore di crescita. Il boom di vendite estere ha avuto un peso anche nella ripresa della produzione industriale dello scorso dicembre, che ha segnato una crescita del 6,6% tendenziale, ben superiore rispetto alla performance di Germania, Francia e Spagna. C'è un altro indicatore positivo importante, la riduzione dei fallimenti, che sono in calo dell'8,5% nella media globale, con l'industria ormai quasi tornata ai livelli pre-crisi. È presto per dire che soffia un vento nuovo, ma se anche sono solo refoli, è bene tenerli in grande considerazione. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Che cosa hanno in comune la crisi delle valute con l'andamento di Bitcoin, la prima valuta digitale mondiale che si sta affermando un po' su tutti i mercati, e non solo finanziari ma anche al consumo, visto che può essere utilizzato ormai da tempo per gli acquisti di automobili, software, computer, alberghi e addirittura viaggio. Bitcoin, nata nel 2009 per iniziativa di uno scienziato misterioso con uno pseudonimo giapponese, è dilagata a macchia d'olio su tutti i mercati, anche per la facilità di comprare. Si comprano sui computer, non si passa attraverso delle banche, non ci sono costi di intermediazione e soprattutto la valuta può essere trasferita da una parte all'altra del mondo senza essere tracciati né dalle autorità di controllo né dalle banche. Insomma, sicuramente una valuta del futuro, ma anche una valuta che ci riporta al passato, quella dell'esportazione dei capitali, quella del riciclaggio, perché l'assenza di controlli sembra un po' alla base proprio di questo boom delle quotazioni della valuta digitale. Bastano due cifre: nel gennaio del 2011 un bitcoin costava 40 centesimi, a gennaio del 2016 costava 370 dollari, a gennaio del 2017 siamo arrivati a 776 dollari di quotazione, per arrivare in questi giorni a 1040 dollari. Fate due calcoli e pensate ai miliardi che stanno girando nell'ombra. Tutti guardano la borsa, i bond, i futures, e pochi si accorgono che proprio nei meandri dei mercati stanno nascendo delle miniere d'oro che partono proprio per l'era digitale. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.